Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Finalmente arrivò la pioggia, anche se continuò a fare piuttosto caldo. La sera dovevo accendere il fuoco, ma qui del resto, nelle giornate più fresche, occorre scaldare anche d'estate. Rimasi in casa e riadattai il completo da cacciatore di Ugo alle mie misure. Cucivo malissimo, senza alcuna perizia, ma dopo tutto non dovevo confezionare un capolavoro. Questa attività, che svolgevo tanto malvolentieri, mi teneva occupate solo le mani. I miei pensieri andavano a spasso. Era piacevole stare in un ambiente caldo. Lince dormiva nella nicchia della stufa, la gatta sul mio letto e Tigre dava la caccia a una pallina di carta sospingendola da un angolo all'altro. Ormai era quasi adulto e già più grosso di sua madre. La sua testa massiccia di gatto maschio era larga quasi il doppio della testolina minuta della gatta. Al nostro ritorno, la vecchia gatta lo aveva accolto con animosità finché Tigre, forse per paura, non le aveva risposto con un'energica soffiata. Dopodiché erano andati d'accordo, o piuttosto si erano ignorati a vicenda, e ciascuno di loro aveva preso a comportarsi come se fosse l'unico gatto della casa. Tigre non aveva riconosciuto sua madre. Quando eravamo partiti per l'Alpe era ancora piccolo e la gatta aveva cessato da un pezzo di occuparsi di lui. A causa del tempo piovoso diventava buio presto e andavo a letto prima del solito. Non riposavo bene come sull'Alpe, dove bastava l'aria a mettermi voglia di dormire. Mi svegliavo 2 o 3 volte per notte, sforzandomi di non pensare per non scacciare il sonno. Col sopraggiungere del fön, i cervi andarono in amore prima del solito e anche questo turbava il mio sonno. Rispetto all'anno precedente, mi pareva che i cervi fossero aumentati. I miei timori si erano dimostrati fondati. Dalle riserve adiacenti, dove potevano riprodursi liberamente, passavano nel mio territorio. Un giorno, a meno che non sopravvenisse un inverno eccezionalmente rigido, il bosco sarebbe stato invaso dalla selvaggina. Nemmeno oggi posso dire come si evolverà questa situazione. Se mai dovessi scavarmi un varco sotto la parete, eseguirò quest'ultimo lavoro con grande cura e costruirò una vera porta di pietra e terra. Non posso negare quest'ultima risorsa alla mia selvaggina. Infine il vento tornò a girare, soffiando ora da levante. Il tempo si ristabilì ancora una volta. Verso mezzogiorno l'aria si scaldava al punto che potevo sedere sulla panca al sole. Le grosse formiche dei boschi ritrovarono la loro intraprendenza, sfilandomi davanti in processioni grigio-nere. Sembravano assolutamente sicure del fatto loro ed era impossibile distoglierle dal lavoro. Trascinavano aghi d'abete, piccoli coleotteri e granelli di terra, dandosi un grande affare. Mi facevano sempre una certa pena. Sono sempre stata incapace di distruggere un formicaio. Il mio atteggiamento verso questi piccoli automi oscilla tra l'ammirazione, l'orrore e la pietà. Certo, solo perché li osservo con occhi umani. A una superformica gigante, probabilmente il mio brigare apparirebbe misteriosissimo e inquietante. Bella e Toro trascorrevano tutto il giorno nella radura, brocando ormai senza molto entusiasmo l'erba ispida e giallognola. Preferivano decisamente il fieno fresco e odoroso col quale li nutrivo la sera. Tigre giocava lì vicino, tenendosi però a distanza dalle formiche. Lince intraprendeva piccole puntate tra i cespugli, dalle quali tornava ogni 10 minuti a interrogarmi con lo sguardo, per sparire di nuovo rassicurato dopo una mia parola di lode. Il tempo rimase bello quasi fino alla fine di ottobre. Decisi quindi di approfittare di quel periodo favorevole per raddoppiare la mia scorta di legna. Lavoravo con un ritmo calmo e regolare, senza faticarmi troppo. Durante il primo anno ne ero stata incapace, semplicemente perché non avevo ancora trovato il ritmo giusto. Poco a poco avevo però acquistato esperienza e mi ero adattata al bosco. In città si riesce a vivere per anni in uno stato di frenetica agitazione, logora i nervi, tuttavia si può resistere per molto tempo. ma nessuna persona può scalare le montagne, piantare patate, spaccare legna o falciare in uno stato di frenetica agitazione più a lungo di qualche mese. Quel primo anno, non essendomi ancora adattata, avevo superato di gran lunga le mie forze e mai più mi riprenderò completamente da quell'eccesso di fatica. Per di più, mi ero anche sentita assurdamente fiera di ogni singolo primato. Oggi, perfino dalla casa alla stalla, mi muovo col passo tranquillo di chi vive nei boschi. Il corpo è rilassato e gli occhi hanno tempo per guardare. Uno che corre non può guardare. Nella mia vita precedente, la mia strada mi portava per anni a passare da una piazza dove una vecchia donna dava da mangiare ai piccioni. Ho sempre amato gli animali e a quei piccioni, ormai da tempo pietrificati, andava tutta la mia simpatia. Eppure, non saprei descriverne nemmeno uno. Non so neppure di quale colore avessero gli occhi o i becchi. Proprio non lo so. E credo questo la dica lunga sul mio modo di muovermi attraverso la città. Solo da quando sono diventata più lenta, il bosco attorno a me palpita di vita. Non intendo dire che questo sia l'unico modo di vivere, ma per me è certamente quello appropriato. E quante cose sono dovute accadere perché riuscissi a scoprirlo. Prima ero sempre in procinto di correre da qualche parte, sempre di fretta in preda a un'impazienza esasperata, perché in qualsiasi luogo arrivassi dovevo sempre aspettare a lungo. Avrei potuto invece percorrere tutta la strada a passo di lumaca. Talvolta mi rendevo conto con assoluta chiarezza della mia condizione e di quella del nostro mondo. Eppure non ero capace di evadere da quella vita insensata. La noia di cui spesso soffrivo era la noia di un ingenuo coltivatore di rose a un congresso di fabbricanti di automobili. Quasi per tutta la vita mi sono trovata in mezzo a un congresso del genere. E mi stupisco di non essere a un certo punto caduta morta per il disgusto. Probabilmente sono riuscita a vivere unicamente perché potevo sempre rifugiarmi in seno alla mia famiglia. Ma negli ultimi anni avevo spesso l'impressione che anche i miei parenti più stretti fossero passati al nemico e la vita era diventata veramente grigia e triste. Qui nel bosco, in realtà, mi trovo al posto che mi spetta. Non servo rancore ai fabbricanti di automobili, del resto hanno perduto qualsiasi interesse da molto tempo. Ma quanto mi hanno tormentata tutti loro con cose che mi ripugnavano. Avevo solo questa piccola vita e non me l'hanno lasciata vivere in pace. Tubi del gas, centrali elettriche e oleodotti. Ora che gli uomini non esistono più, mostrano infine la loro vera misera faccia. E a quel tempo ne avevano fatto degli idoli piuttosto che oggetti di consumo. Pure qui, in mezzo al bosco, mi ritrovo un oggetto del genere, la Mercedes nera di Ugo. Era quasi nuova quando arrivammo. Oggi è ricoperta di intrighi vegetali, un nido per topi e uccelli. Specialmente in giugno, quando fiorisce la clematide, ha un aspetto molto grazioso, come un gigantesco bouquet nuziale. È bella anche d'inverno, quando luccica di brina o indossa una cuffia bianca. In primavera e in autunno, attraverso gli steli bruni, vedo il giallo sbiadito dell'imbottitura, foglie di faggio, pezzetti di gomma piuma e crine, estratti e sfilacciati da minuscoli denti. La Mercedes di Ugo si è trasformata in una meravigliosa dimora, calda e protetta dal vento. Si dovrebbero piazzare più automobili nei boschi, sarebbero luoghi ideali per la nidificazione. Ce ne saranno a migliaia sulle strade che attraversano il paese, ricoperte di edera, cespugli e ortiche. Ma sono completamente vuote e disabitate. Vedo il rigoglio della vegetazione, verde, vivido e silenzioso, e odo il vento e i vari rumori nelle città morte, i vetri delle finestre che si frantumano sul selciato quando i cardini cedono per la ruggine, lo stillare dell'acqua dalle tubature scoppiate e lo sbattere di migliaia di porte al vento. A volte, nelle notti di tempesta, un oggetto pietrificato che un tempo fu un uomo si ribalta sulla sedia davanti alla scrivania per cadere con un tonfo sordo sul parquet. Per un certo periodo devono esserci stati anche grandi incendi. Ora comunque tutto questo deve essere finito e le piante sono impazienti di ricoprire i nostri resti. Osservando il terreno dietro la parete, non vedo una formica. Nessun coleottero, non il più piccolo insetto. ma non resterà così. Con l'acqua dei ruscelli la vita, una vita minima, elementare, riprenderà a infiltrarsi e tornerà a vivificare la terra. Potrebbe essermi del tutto indifferente, invece, per qualche singolare motivo, mi riempie di segreta soddisfazione. Il 16 ottobre, da quando ero tornata dall'Alpe, avevo ripreso con regolarità le mie annotazioni. Il 16 ottobre tolsi le patate dal suolo e radunai i tuberi ancora incrostati di terra nera nei sacchi. Il raccolto era abbondante e i topi avevano causato pochi danni. Potevo ritenermi soddisfatta e affrontare l'inverno senza timori. Mi pulii le mani annerite, strofinandole contro uno dei sacchi, e andai a sedere su un tronco. Il tempo dell'ininterrotto languore di stomaco era finito. Al pensiero del pasto serale, patate e novelle col burro, mi venne l'acquolina in bocca. Dai faggi trapelavano gli ultimi raggi di sole e io mi rilassai soddisfatta. La schiena mi faceva male per essermi chinata a lungo, ma era un dolore gradevole, giusto quel tanto per accorgermi di avere una schiena. Mi rimaneva da affrontare il trasporto dei sacchi fino a casa, trascinandoli sopra dei rami. In genere li legavo due alla volta sopra alcuni rami di faggio, i quali durante l'estate fungevano da carretto e d'inverno sostituivano la slitta, trainandoli poi fino allo chalet sul sentiero che avevo battuto. La sera, una volta sistemate tutte le patate nella cameretta, fui sopraffatta dalla stanchezza, tanto da andare a letto senza cena, rimandando il pranzo luculliano. Il 21 ottobre il tempo continuava a mantenersi sereno. Portai a casa le mele e i piccoli pomi selvatici. Le mele avevano un sapore squisito, sebbene fossero ancora un po' acerbe. Le stesi nella cameretta, avendo cura che non si toccassero l'un l'altra. Nella prima fila collocai quelle ammaccate, destinandole al consumo immediato. Erano molto graziose, verdi come l'erba, con guance rosso fuoco ben delineate, come la mela nella fiaba di Biancaneve. Le fiabe le ricordavo ancora con grande precisione, ma per il resto avevo dimenticato molte cose. Essendo sempre stata comunque piuttosto ignorante, mi restava solo un sapere modesto. Nella mia testa vivevano dei nomi e non ricordavo quando fossero vissuti coloro che li avevano portati. Avevo sempre studiato unicamente per gli esami e più tardi la possibilità di ricorrere a un'enciclopedia mi aveva dato una sensazione di sicurezza. Ora, senza questi supporti, nella mia memoria regnava una terribile confusione. A volte mi tornavano in mente alcuni versi e non sapevo di chi fossero. Venivo allora presa dal desiderio struggente di recarmi alla biblioteca più vicina per prendere dei libri. Mi consolava un poco che questi libri esistessero ancora e che un giorno me li sarei procurati. Oggi so che quel giorno sarà troppo tardi. Nemmeno in tempi normali riuscirei a vivere abbastanza a lungo per colmare tutte le lacune. E non so neppure se la mia testa sarebbe ancora in grado di ricordare tutte queste cose. Se dovessi mai uscire di qui, accarezzerò con rimpianto e con amore ogni libro che troverò, ma non lo leggerò più. Fin quando vivrò, avrò bisogno di tutte le forze per mantenermi in vita con gli animali. Non sarò mai una donna veramente colta. È una cosa alla quale mi devo rassegnare. Il sole continuava a splendere, ma il freddo andava leggermente aumentando di giorno in giorno e la mattina trovavo ogni tanto un velo di brina. Il raccolto dei fagioli era stato ottimo ed era venuto il momento di andare a prendere i mirtilli rossi sull'Alpe. Ritornavo molto malvolentieri lassù, ciò malgrado mi parve di non poter rinunciare a quelle bacche. Il prato dell'Alpe si stendeva in un silenzio stregato sotto il pallido cielo d'ottobre. Mi recai al punto panoramico e scrutai il territorio. Si vedeva più lontano che durante l'estate e scoprii un campanile rosso mai visto prima d'allora. I prati, ormai gialli, erano ricoperti di un velo marroncino, il mare dei semi maturi, e tra loro si aprivano gli appezzamenti rettangolari e quadrati un tempo coltivati a frumento. Quell'anno apparivano già erosi da grosse chiazze verdastre, un proliferare di gramigna. Il paradiso dei passeri, ma laggiù non esisteva più l'ombra di un passerotto. Erano sparpagliati tra l'erba come uccellini di gesso, già mezzo sprofondati nel terreno. Mi ero avvicinata a quel luogo senza speranza, eppure, al vedere tutto ciò, non una nuvola di fumo, non la minima traccia di vita, fui sopraffatta di nuovo da un profondo scoramento. Lince s'era fatto attento e mi incitava a riprendere il cammino. D'altronde faceva troppo freddo per restare seduti a lungo. Raccolsi le bacche per 3 ore. Era un lavoro fastidioso. Le mie mani avevano perso l'abitudine a maneggiare cose tanto piccole ed erano diventate maldestre. Infine il mio secchio fu pieno e andai a sedere sulla panca davanti alla capanna per bere del tè caldo. Nel prato, in quei punti dove l'erba brucata era ricresciuta, si vedevano grandi chiazze ormai gialle senza linfa. Qua e là cresceva qualche ciuffo basso di genzianella color viola chiaro. I suoi fiori parevano ritagliati da una vecchia seta delicata. Una pianticella autunnale, malaticcia. Rividi anche la poiana descrivere i suoi cerchi e tuffarsi improvvisamente nel bosco. Fui sopraffatta dalla sensazione che sarebbe stato meglio restare lontana dall'Alpe per sempre. Detesto essere aggredita e mi misi subito sulla difensiva. Non esisteva nessuna ragione sensata per cui dovessi restare lontano dall'Alpe. Attribuì dunque la mia avversione al timore provocato dalle fatiche del trasferimento. Comunque fosse, non potevo aver riguardo per la mia fiacchezza. Tutto era stato deciso da tempo e ritenuto conveniente. Eppure, alla vista del prato ingiallito, delle rocce scintillanti e delle genziane malaticce, fui presa da un brivido freddo. L'improvvisa sensazione di una grande solitudine, di vuoto e di trasparenza, mi indusse ad alzarmi per abbandonare l'Alpe quasi fuggendo. Già lungo il sentiero familiare attraverso il bosco, tutto mi apparve completamente irreale. Il freddo aumentò rapidamente e Lince incalzava per tornare a casa al calore del focolare. Il giorno di ogni santi si fece improvvisamente caldo e sapevo che questo poteva solo annunciare l'inverno. Per tutto il giorno, mentre sbrigavo il mio lavoro, pensai ai cimiteri. Non esisteva un motivo particolare, eppure era più forte di me, perché per tanti anni pensare ai cimiteri in quei giorni era stata un'abitudine. Immaginai come l'erba avesse da tempo soffocato i fiori sulle tombe, le croci, le pietre, nel loro lento sprofondare nella terra e le ortiche che invadevano tutto. Vidi le piante rampicanti sulle croci, le lanterne infrante e i mozziconi dei ceri. E la notte, i cimiteri completamente deserti. Non ardeva un lume. Nulla si muoveva all'infuori del frusciare del vento nell'erba secca. Ricordavo le processioni di persone con le borse della spesa piene di giganteschi crisantemi, l'operoso e furtivo piantare e innaffiare sopra le tombe. Non ho mai amato il giorno dei morti. Il bisbigliare di decomposizione e morte delle vecchie donne e dietro i bisbigli la brutta paura che incutevano i morti e la mancanza d'amore. Per quanto avessero cercato di dare un significato elevato alla festa, la atavica paura che i morti ispiravano ai viventi non si lasciava estirpare. Bisognava infiorare le tombe per essere liberi di dimenticarli. Già da bambina soffrivo a veder trattare tanto male i morti. Eppure, chiunque poteva tirare le somme. Presto avrebbero imbottito anche la sua bocca morta di fiori di carta, ceri e preghiere atterrite. Ora i morti potevano infine riposare in pace, non più molestati dallo scavare delle mani di quelli che si erano resi colpevoli verso di loro, ricoperti finalmente da un intrico d'erba e di ortiche, imbevuti di umidità sotto l'eterno frusciare del vento. E se la vita dovesse mai tornare, riprenderebbe a germinare dai loro corpi dissolti e non da quelle cose pietrificate, condannate a restare inanimate fino alla fine dei tempi. Avevo pietà di loro, dei morti e degli esseri pietrificati. La pietà era l'unica forma d'amore che ancora conservavo per gli esseri umani. Le folate di vento caldo che scendevano dalla montagna mi scombussolarono, avvolgendomi in una malinconica oscurità dalla quale tentai invano di difendermi. Anche le bestie soffrivano a causa del fön. Lince se ne stava spossato sotto un cespuglio e Tigre gridava e si lamentava tutto il giorno, assillando sua madre con impeti di tenerezza. Ma la gatta non ne volle sapere, e così Tigre corse nel prato e, miagolando forte, si mise a battere la testa contro un albero. Alle mie carezze costernate rispose affondandomi il naso caldo nella mano con un miagolio lamentoso. Tutto a un tratto Tigre Non era più il mio piccolo compagno di giochi, ma un gatto maschio quasi adulto, tormentato dall'amore. Dal momento che la vecchia gatta non ne voleva sapere, negli ultimi tempi era diventata piuttosto bisbetica, Tigre sarebbe fuggito nel bosco alla disperata ricerca di una femmina. Ma per lui non c'erano femmine. Maledissi il vento caldo e andai a letto tormentata da cupi pensieri. I gatti si avventurarono entrambi nella notte e poco dopo, dal bosco, udì il canto di Tigre. Possedeva una voce stupenda, un'eredità del signor Cao Cao, solo più giovane e flautata. Povero Tigre, avrebbe cantato invano. Trascorsi tutta la notte in uno stato di dormiveglia, immaginando che il mio letto fosse una barca in alto mare. Fu quasi un accesso di febbre che mi spossò e mi diede le vertigini. Credevo continuamente di precipitare in un abisso e vedevo immagini terrificanti. Tutto questo avveniva sopra uno specchio d'acqua danzante e presto non ebbi più la forza di dirmi che non era vero. Era più che reale e l'ordine e la ragione non contavano più. Verso il mattino la gatta saltò sul letto, liberandomi da quella condizione spaventosa. Di colpo tutto lo scompiglio si dissolse nel nulla e infine mi addormentai. Al mattino il cielo era velato di nero. Il vento sibilante si era placato, ma sotto la coltre di nubi covava un caldo afoso. La giornata si trascinò nell'aria viscosa e umida che opprimeva i polmoni. Tigre non era tornato a casa. Lince si aggirava intristito. Non soffriva tanto per il vento quanto per il mio cattivo umore, che mi allontanava da lui rendendomi inaccessibile. Sbrigai il mio lavoro nella stalla e prima di poterla mungere dovetti costringere Bella ad alzarsi. Anche Toro era stranamente inquieto e recalcitrante. Dopo il lavoro mi allungai sul letto. Quella notte non avevo quasi dormito. Le finestre e la porta erano spalancate e Lince si sdraiò sulla soglia a proteggere il mio sonno. In effetti mi addormentai per ritrovarmi in un sogno animato. Mi trovavo in un ambiente molto luminoso, simile a una grande sala tutta bianca e oro. Lungo le pareti c'erano sontuosi mobili barocchi e il pavimento era ricoperto d'un prezioso parquet. Guardando dalla finestra in un giardino alla francese, scorsi un piccolo padiglione. Da qualche parte suonavano la piccola serenata notturna. All'improvviso ebbi coscienza che tutto questo non esisteva più. Fui travolta dalla sensazione di aver subito una perdita terribile. Premetti le mani sulla bocca per non gridare. Allora la luce chiara si spense, l'oro sprofondò nel crepuscolo e la musica si trasformò in un monotono rullio di tamburi. Mi destai. La pioggia sferzava i vetri. Rimasi immobile nel letto ad ascoltare attentamente. La piccola serenata notturna si era nascosta sotto la pioggia e non riuscivo a ritrovarla. Era quasi un miracolo che il mio cervello assopito avesse risuscitato a nuova vita un mondo passato. Non riuscivo a crederci. Quella sera fummo tutti come sollevati da un incubo. Tigre tornò strisciando attraverso la gattaiola, arruffato, il pelo ricoperto di terra e di aghi d'abete, ma liberato dalla sua ossessione. Gridò la sua paura e dopo aver bevuto del latte si rifugiò esausto nell'armadio. La vecchia gatta si degnò di lasciarsi accarezzare e Lince, una volta accertato che mi fosse ritrasformata nella creatura umana a lui familiare, strisciò verso la sua cuccia. Disposi le carte per il mio vecchio solitario e al chiarore del lume ascoltai la pioggia che sferzava le imposte. I giorni successivi la pioggia continuava a cadere regolare e tranquilla e rimasi in casa. Mi ero lavata la testa e i capelli adesso volavano leggeri e voluminosi. L'acqua piovana li aveva resi morbidi e lisci. Davanti allo specchio li tagliai corti fino a ricoprire appena le orecchie e osservai il mio viso abbronzato sotto il casco di ciocche schiarite dal sole. Avevo un aspetto assolutamente estraneo, magro, le guance leggermente scavate. Le labbra si erano assottigliate e quel volto estraneo mi parve segnato da una carezza segreta. Dal momento che non esisteva più nessuno ad amarlo, quel volto mi sembrò del tutto superfluo. Era misero e nudo e ne provai vergogna e non volli più averci a che fare. Le mie bestie erano affezionate al mio odore, alla mia voce, a certi gesti. Potevo tranquillamente deporre la mia faccia, non serviva più. Questo pensiero mi suscitò una sensazione di vuoto, dalla quale dovevo assolutamente liberarmi. Cercai un lavoro qualsiasi, dicendomi che nella mia situazione era puerile piangere la perdita d'una faccia. Tuttavia quel sentimento angoscioso d'aver perduto qualcosa di importante non si lasciò scacciare. Nel frattempo, nella stalla, aveva inizio qualcosa che mi riempiva di spavento. Bella reclamava uno sposo e muggiva tutto il giorno. Non era un fatto nuovo. Si ripeteva ogni 2 o 3 settimane e, non potendo esserle d'aiuto, mi ero abituata a non farci caso. Per quale motivo non avessi mai tratto l'ovvia conclusione, oggi mi è difficile capirlo. Qualcosa dentro di me doveva inibire il pensiero che Toro potesse un giorno diventare adulto. Eppure avevo atteso quel momento fin dalla sua nascita. In ogni caso, un bel giorno lo sorpresi mentre stava accostandosi a sua madre in un modo che non lasciava dubbi. La mia reazione immediata fu di rabbia e di spavento. Si era liberato dal laccio e mi stava dinanzi tutto tremante, con gli occhi iniettati di sangue. Aveva davvero un aspetto tremendo. Si lasciò comunque legare di buon grado e la cosa finì lì. Tornai subito a casa e sedetti al tavolo per riflettere. Non avevo la più pallida idea di cosa fosse giusto fare. Potevo lasciare i 2 animali uno accanto all'altro senza esporre Bella, più debole di Toro, a un pericolo? Nel periodo che seguì, Toro divenne sempre più intraprendente e Bella pareva temerlo. Dovevo separarli. Avrei trasferito Toro nel garage. Questa decisione comportò una quantità di lavoro. Fui costretta a sistemare il fieno in una delle camerette al piano superiore. Per me, portare il fieno ogni giorno da lassù in 2 stalle separate era faticoso, e per Toro questo cambiamento equivaleva a un esilio al freddo e nell'oscurità. Ma non avevo scelta. Toro non era contento di questo trasferimento e non lo ero nemmeno io. Se ne stava ritto, la grossa testa tristemente abbassata, lo sguardo cupo fisso davanti a sé, prestandosi a tutto senza opporre resistenza. Non aveva fatto nulla di male e veniva punito per essere diventato adulto. Andai nel bosco con l'ince per non dover più udire il muggito di madre e figlio. A me toccava il doppio lavoro nelle stalle e la sensazione di aver compiuto un gesto crudele. Quelle povere bestie non possedevano altro all'infuori della reciproca vicinanza e l'ininterrotta intesa segreta dei loro corpi caldi. Speravo che Bella avesse concepito un vitello e presto non fosse più sola. Per Toro non vedevo alcuna speranza. Dopo 3 settimane si dimostrò che Toro non era ancora adulto, oppure che Bella, dopo la lunga attesa, non era più in grado di concepire. Del resto, non lo so con certezza neppure oggi. Quando Bella riprese a mugghiare, le condussi Toro, che mi precedeva trascinandomi allegramente. Passai il tempo fuori di me dalla paura che potesse ferire, se non addirittura uccidere, la sua piccola madre delicata. Si comportò come un selvaggio. Bella, comunque, non sembrava pensarla così, e questo mi tranquillizzò un poco. 3 settimane dopo ripresi di nuovo a mugghiare e lo spettacolo terrificante si replicò. Ma nemmeno in quel caso si vide un risultato e a quel punto non seppi più che fare. Forse Toro non avrebbe ancora dovuto dedicarsi a quell'attività. Decisi di attendere ancora qualche mese. Prima, sopportare il mugghiare di Bella mi era stato più facile. Ora, potendola assecondare, era diventato intollerabile. Ogni volta dovevo andarmene il più lontano possibile nel bosco con l'ince. Toro, inoltre, si trovava in uno stato di terribile eccitazione e quasi non osavo entrare nella stalla. Durante gli intervalli tornava a essere un grosso vitello mansueto, giocoso, tenero nei miei confronti. Nei mesi successivi mi capitò spesso di maledire il ciclo della procreazione e della nascita, che aveva trasformato la mia pacifica stalla di madre e figlio in un inferno di solitudine e di accessi di follia. Ora Bella non mugghiava più da molto tempo. O aspetta veramente un vitello, oppure la sua fecondità si è esaurita e non le è rimasto che il tepore della stalla, il foraggio, il ruminare e ogni tanto un oscuro ricordo che lentamente si estingue. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, Bella è diventata ben più di una vacca per me. Una povera sorella paziente che sopporta il suo destino con più dignità di quanto faccia io. Le auguro veramente un vitello. Prolungherebbe il tempo della mia prigionia e mi caricherebbe di nuove preoccupazioni. Ma che Bella abbia il suo vitello e sia felice. E io non chiederò se ciò si accordi o meno con i miei piani.